Ed ora solo tre parole nuove per il prossimo dialogo. Le ascolti e ripeta l'italiano dopo la seconda volta. Una brioche. A brioche. Una brioche. La crema. Cream. La crema. Preferisco. I prefer. Preferisco. And here are those words again. Una brioche. La crema. Preferisco. Ora ascolti. Che profumo di caffè! Prendiamo un espresso? Why not? Sì, un espresso per me. Io prendo anche una pasta. Ho fame. You're eating pasta now? Sì, ma non pasta come primo piatto, spaghetti o penne. What then? Ecco, quella è una pasta. That's a small cake. Si chiama brioche. Una brioche anche per lei? For me, no thanks, just a coffee. Solo un caffè. Bene. Signore? Due caffè e una brioche, per favore. Questa va bene? È con la crema? Sì, è con la crema. Ah, allora no. Preferisco quella con la marmellata. Ecco a lei. Grazie.